Pochi convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Io credo in senso generale il calcio è fatto perché ci siano i tifosi allo stadio, che ci sia quello che poi trasmettono i tifosi in una partita di calcio. In questo in linea generale, figuriamoci in un derby senza le, con gli spalti semivuoti o vuoti, fino a, non so fino a che punto possono essere negativo per il calcio tutto. Quindi vorrei vedere lo stadio sempre pieno di gente che faccia il tifo per la propria squadra. Non posso immaginare un derby senza una delle due curve. Io sono favorevole che ci siano entrambe le curve, così lo spettacolo aumenta. Cioè, se sono cori razziali per il colore della pelle sono d'accordo, ma se sono cori territoriali, da quanti anni è che ci sono? Gli sfottò. Cioè, lo sfottò, secondo me, beh, mi dicono sempre polentone, quindi cosa devo fare? Mi dicono polentone, caro Pier, era Cristian Abbiati, polentone. A parte che posso dire, la polenta è buonissima e i terroni, il sud del Mediterraneo è un posto da sogno, questo non dovremmo mai dimenticarcelo, che poi spesso facciamo, si dice le guerre fra poveri sono guerre fra ricchi, perché siamo, se ci abbiamo un culo nella vita, poi magari abbiamo un sacco di problemi, ma se ci abbiamo un culo nella vita, si può dire culo, sì, è quello di abitare in un posto mediamente molto molto bello, per cui insomma francamente non mi sento di poter dire che ci sia nulla di cui vergognarsi o nessuna condizione particolarmente sfigata nell'essere polentoni o terroni. Dai. Io polentoni. Tu sei polentone o terrone? No, io sono romano. Tu stai in mezzo. Questa categoria credo che al nord insomma sia considerata una, comunque abbastanza meridionale. Male. E al sud viene considerata abbastanza. Roma è. E credo viceversa. È la the Republic of Cheese and Pepper, la Repubblica del Cacio e Pepe, è basata su pochi concetti fondamentali. Però se vuoi cerchiamo, adesso vado su internet, su Google e cerchiamo come viene tutto considerata la Repubblica, sì, Romana a Milano e dintorni, oppure tutto possiamo anche il grande raccordo anulare rimane all'interno del grande raccordo anulare, come sulle magliette, no, di Ibiza o cose del genere. Dai, sbilanciati, curva nord aperta o chiusa, è a minuti il verdetto, magari riusciamo anche a darlo in diretta, 800 24 00 24, aperta o chiusa, Pier? Lo voglio dire proprio con chiarezza assoluta qui, per me è assurdo, se viene confermata la squalifica è assurdo, così come se viene confermata la squalifica della curva sud della Roma è assolutamente assurdo. Caro Pier, però io su questo non sono d'accordo. Io lo so che a Roma si sono schierate le legioni, oggi c'era il titolo del romanista, apritela. Ma c'è il biglietto nominativo, guarda, il discorso è il biglietto nominativo, giusto? C'è la testa del tifoso, sappiamo quindi chi sono i tifosi della Roma che sono andati a Milano? Squalifichiamo quelli, anche se è già una porcata giuridica, perché io posso essere stato nel settore ospiti e non aver cantato e pago. Però squalifichiamo, è il stesso discorso per l'Inter. Qualifichiamo, visto che erano tutti biglietti nominativi, dell'epoca di Inter, dell'elettronica, disattiviamo il chip del biglietto elettronico legato a quel nome e cognome di quella persona che era a Napoli, tecnicamente a Napoli. Sì, però caro Pier, io trovo ad esempio incredibile quello che sta succedendo in queste ore, incredibile anche lo scivolone del presidente del CONI Malagò, sai cosa ha detto? Ha detto la Roma ha fatto benissimo a presentare ricorso, bisogna capire cosa è stato detto, cosa è stato sentito, mi sembra non ci sia stata univocità di giudizio. Caro presidente del CONI Malagò, Non è così, ma quale mancanza di univocità di giudizio. Io sono andato a riprendermi, caro Pierre, il dispositivo di Tosel. La storia dei rossonieri, squadra di neri, rossonieri carabinieri, è un pezzettino. Ci sono delegati che hanno scritto che erano a 60-70 metri i burazzisti su Balotelli. Per favore, almeno se uno è il presidente del CONI, diciamo le cose, evitando di fare, lo posso dire, gli ultra della Roma. No, ma io, scusa, questo però è... non sono d'accordo, nel senso che io penso che Maragò abbia espresso un punto di vista, non da tifoso, abbia espresso un punto di vista da uomo di sport, è un punto di vista sul quale puoi non essere d'accordo, ma cioè, voglio dire, sarebbe veramente fare un torto all'intelligenza di Maragò dire che ha dato questa valutazione. Però c'è un po' di superficialità, secondo me. La curva della Roma non è stata chiusa solo per quel coro che non c'è stato, mi sembra di poterlo dire, l'hanno fatto sentire, non c'è stato. C'è anche altro. Lasciamo lavorare Tosel e chi adesso in Federcalcio, non lo so, perché secondo me se no si cade nell'errore contrario. Poi sono d'accordo con te che probabilmente queste norme sono per l'ennesima volta da riscrivere. Pier, 5.000 euro di multa, te lo scrive Michele, 349-238-66. Vero, l'ho detto due volte, 10.000 euro di multa. 10.000 euro, tutti convocati. Tutto quello che faremo domani è stato abbondantemente concordato, condiviso da tutti, a partire dal presidente, quindi molto bene. Come sarà sempre il Milan? Certo che non è. Tanto il Milan è di Silvio Berlusconi, cominciamo a dire una cosa, che è il nostro faro e la guida, ma certamente, non veramente, da parte mia c'è la totale, assolutamente disponibilità, voglia, eccetera, eccetera, di collaborare con Barbara, che ho visto nascere, perché beata lei, è nata il mio stesso giorno, 30 luglio, ma qualche anno dopo di me, quindi non c'è proprio nessun tipo di problema. Intanto è nato il nuovo Milan, Pier, quello a due teste, ci credi o no? Ti piace o no? Ma allora, è chiaro che è una situazione che può destare confusione, però io ho detto, quando si è saputa questa cosa, un paio di settimane fa, l'esempio di Catania-Milan, una settimana complicatissima, quando ancora non c'era stata la qualificazione in Champions, secondo me poi tra persone intelligenti si può anche lavorare insieme. Per cui è chiaro che insomma il modo attraverso il quale si è arrivati a questa decisione lascia pensare che ci possano essere attriti, che ci possa essere una difficoltà di comunicazione e di rapporto tra i due amministratori delegati, quindi questo non ce lo possiamo nascondere. In generale però attenzione, perché comunque poi nel calcio contano i risultati, i rapporti possono cambiare, le aree di influenza sono comunque aree separate da quello che abbiamo capito, deleghe sono diverse, quindi ce n'è una più strettamente tecnica, c'è la possibilità di in qualche modo di convivere. E linea di massima non è una cosa impossibile. Che ci sia un direttore della tecnica. È un esperimento che nel calcio credo certo. non si è mai fatto. Franco Ordine, inviato del giornale, buon pomeriggio. Intanto non è vero che nel calcio non si è mai fatto, perché nella Juventus esiste già di fatto il doppio amministratore delegato, uno che si occupa dei conti, Mazzia, e l'altro invece che si occupa dell'area calcistica, che è Marotta. Quindi si può fare, ma non ti dico di più, non soltanto si può fare, ma è lo schema futuro che vedrai adotteranno tutte le grandi squadre, tutti i grandi club, perché oggi con le cadenze, con i ritmi del calcio di oggi, in cui ci sono tre partite alla settimana, parti la domenica, rientri il lunedì, riparti il martedì, ritorni il giovedì e così via, è impossibile che una sola persona, un solo amministratore delegato si possa occupare del calcio d'angolo, del calcio di rigore, dell'organizzazione, degli acquisti e poi del brand, dello stadio, di tutto il resto. E quindi secondo me sarà uno schema, perché regge, come mi sembra di averti detto anche in una precedente circostanza testimone Pardo, regge perché questo non è stato deciso sulla base di un calcolo politico oppure sulla base di una trattativa segreta tra le persone, è stato deciso così perché questo è lo schema voluto da Silvio Berlusconi, e al Milan comanda Silvio Berlusconi e gli altri, nessuno è in grado di poter disconoscere un accordo del genere. Quindi non è un escamotage, qualcuno l'ha scritto in questi giorni per spalmare Come la no? liquidazione di Galliani per 4-5 anni. Allora È chiaro che poi lì è legato anche il discorso di natura economica, ma non si è mai visto che un accordo del genere avrebbe avuto un senso se fosse stato scadenzato ad aprile del 2014, poiché invece è lungo 5 anni, è molto più di un accordo, di una larga intesa, è uno schema vero e proprio. Pier. Sì, ma io sono d'accordo. Penso che, ripeto, non possiamo adesso cancellare gli attriti, le difficoltà, la dichiarazione stizzita di Galliani all'Ansa, poi la riconciliazione. È chiaro che la gestazione di tutto questo... Scusami, Pier. Ma anche nelle famiglie tra marito e moglie si litiga e poi si fa la pace. Ma io sono d'accordo, sono esattamente su questa linea. Io penso che per tutta una serie di motivi, sicuramente anche quelli economici, della buona uscita, di quella dichiarazione di Galliani, si sia ritenuto più opportuno e possibile tornare a lavorare insieme. Ma se non ci fossero stati margini per poter neanche provare a lavorare insieme, si sarebbe data la buona uscita, si sarebbe fatto un accordo sulla buona uscita, non si sarebbe partorito poi per 5 anni questo tipo di situazione. In generale, secondo me, premesso che Galliani, per quello che lo conosco e per quello che ha fatto in questi anni, può occuparsi anche di brand, di diritti televisivi e di tutto il resto, perché l'ha fatto per tanti anni e l'ha fatto benissimo, ma in generale che esistano due figure non è così strampalato, perché da un lato il calcio nelle società è soprattutto tecnico, quindi è chiaro che se sei bravo nella gestione degli scout, se sei bravo nel mercato, chiaramente hai una marcia in più, ma sta crescendo sempre di più in questi ultimi anni una componente di brand delle società che 20 anni fa non c'era e che oggi è fondamentale e ha bisogno di specialisti che se ne occupino in maniera molto strutturata e molto professionale. In questo il calcio sta diventando sempre molto più simile a un'azienda di tipo tradizionale per questa seconda parte, quindi servono esperti di marketing, esperti di commerciale, esperti di pubbliche relazioni, e quindi ripeto, può reggere anche, cioè non è una convivenza di comodo, di facciata, ma secondo me può essere l'inizio di uno schema. Poi che ci sia arrivati, che la gestazione sia stata certamente non un comune accordo, vogliamo fare questa cosa, facciamola bene, ma che ci siano stati degli attriti. Sì, è volato qualche straccio, però la conclusione potrebbe essere in realtà davvero l'inizio di una nuova era. Mi piaceva capire anche se con il ritorno di Silvio Berlusconi, e lo ha detto lui in maniera un po' più costante al centro del Milan, tornano anche gli investimenti o magari anche semplicemente ripianare conti che in un prossimo futuro potrebbero non essere più in ordine per mancata qualificazione alla Champions, mancanza magari di plusvalenze che ci sono state negli ultimi anni, Franco? Beh, intanto allora cominciamo a dire una cosa importante, e cioè il bilancio del Milan è stato messo in sicurezza, e non per un giorno, per una settimana, per un mese, almeno per la durata di 2 o 3 anni, quindi questo è già un problema, risolto. No, è già un risultato portato a casa, perché la grande difficoltà, tanto per guardare un attimo in casa Inter, da parte di Torino è proprio questa, e cioè di conciliare i propositi e le aspettative di grandeur calcistica con i propositi di bilancio da portare in parità, che non è una operazione semplicissima, è molto più complicato che vincere un campionato o una Coppa Italia. E quindi questo è il risultato che già esiste. Ora, immaginare che il Milan nell'immediato futuro possa tornare a fare gli investimenti di una volta è possibile con una sola condizione, che l'economia nazionale, mondiale, europea e naturalmente quindi anche quella italiana torni a essere florida come lo era tanti anni fa, quando passava quasi come ordinaria amministrazione firmare un assegno da 60-70 milioni l'anno per ripianare i debiti. Quindi al momento non è semplicissimo da prevedere, soprattutto dipende soltanto dalle volontà. Non è impossibile all'ordine del giorno, certo. Non è possibile. Certo, grazie Franco. Saluti. Grazie a Franco Ordine, inviato del giornale 800 24 00 24. Intanto Rudy Garcia in conferenza stampa, la questione è questa: sulla storia della curva sud chiusa, se fosse possibile sapere esattamente chi fa dei cori, sarebbe meglio punire quegli individui e non la massa. Credo che questo sia il punto di partenza. Assolutamente d'accordo. Se non puoi arrivare a punire quelli perché non riesci a avere l'immagine, l'unica cosa già restrittiva, già veramente più sì, che borderline. È comunque punire almeno chi è presente. Chi c'era, ma non squalificare. Ma che ne sai che stavano in sud quelli? Io su questo ti seguo, Pierre. Il resto che mi lascia un po' perplesso, ma lo sai che abbiamo, non abbiamo proprio la stessa idea su questa, su questa cosa. Sul resto siamo invece no. Perché io sono la lotta al razzismo è senza se, senza ma. E ti do atto che ci siano dei rapporti storicamente di frange, di pezzi di curva con pezzi di società in generale nel calcio italiano che sono assolutamente negativi e che vanno monitorati, vanno puniti se ci sono degli illeciti e delle cose borderline. Quindi non piace neanche a me quel tipo di commistione, di connivenza. Credo che sia uno dei problemi del calcio italiano, te lo dico senza se, senza ma. Però ti dico anche che la lotta al razzismo, che è in cima alle priorità di un mondo civile, perché sappiamo che per il razzismo troppa gente ha pianto e continua a piangere ed è una cosa che è una minchiata di proporzioni bibliche essere razzisti, soprattutto se ami il calcio, perché se ami il calcio ami tutti, ami Pelé, ami il talento, ami tutti i valori che il calcio comunica. Io non so se queste decisioni schizofreniche del giudice sportivo in realtà poi abbiano un effetto positivo o negativo nei confronti di quello che è il problema più grande. Il problema più grande è che non si fa bu. Il problema più grande è che non si insulta la memoria di Paparelli, non si insulta Pessotto, non si insulta Superga, non si insulta l'Aisel, non si ricorda l'Aisel, l'alluvione e tutte le cose terribili che sono successe o che potenzialmente possono succedere di quel Vesuvio, al quale vogliamo bene come uno straordinario elemento del paesaggio di una città bellissima. Tutte queste cose qui le dobbiamo lasciare da parte e queste cose con l'educazione e con la cultura le dobbiamo combattere. Sì, evitare di rendere gli stadi uno sfogatoio, che si va lì e vale tutto. Un po' sarà sempre uno sfogatoio lo stadio. Sì, non è una chiesa. Bisogna capire la differenza che esiste fra un vaffa, mo' prendo altri 5.000 euro di multa, fra un insulto all'avversario nei limiti Di una civiltà e di una lealtà. Non è che in Inghilterra è qualcosa che trascende. No, in Inghilterra non è che si passeggia nei loro stadi. Tutti convocati. 800 24 00 24. Scusate, Salvatore dalla provincia di Vicenza. Buongiorno a tutti, a voi e a tutti gli ascoltatori. Prego. Una considerazione, due domandine per veloce. Una considerazione, io sono compardo, ma come si fa, voglio dire, no? I tifosi dell'Inter che sono ingabbiati al San Paolo, fanno cori e discriminatori territoriali e non hanno tutti i dati, tutte cose non vengono messi fuori loro, voglio dire, uno. Poi volevo chiedere, se sono simpatizzanti di Mazzarri, se Mazzarri perde domenica il derby, rischia qualcosa? E tre, che fine ha fatto il terzo compare lì della radio Genta? Grazie, ascolto per radio. Il terzo compare è in vacanza, lo ritrovate a gennaio, Mazzarri non rischia, sui tifosi Pierre. Il terzo compare, tra l'altro, stasera sarà il grande protagonista alla festa di Radio 24 che aspettiamo con grande entusiasmo. Quindi Genta, mi raccomando, riposati, arriva tonico, che stasera ci servi molto lucido. A parte le battute, su Mazzarri io non credo che rischi assolutamente. No. Io penso che l'impatto sul campionato dell'Inter sia stato molto positivo, bisogna ricordarsi il punto di partenza che è il girone di ritorno dell'anno scorso. Detto questo, sicuramente nelle ultime partite stanno succedendo cose non da Mazzarri, non da squadra di Mazzarri, troppi errori difensivi, un certo disequilibrio che non è proprio tipico delle sue squadre, il paradosso di un Napoli-Inter nel quale Benitez vince la partita sfruttando al meglio una delle armi migliori di Mazzarri, che era la capacità di ripartire in velocità. Sicuramente Tohir qualche dubbio forse in questo momento in testa ce l'ha, anche perché lui comunque era arrivato con probabilmente anche con la voglia di cambiare qualcosa, no? Perché comunque arriva un presidente nuovo, può avere magari i suoi pallini, si parlava molto di De Boer per esempio, quindi io credo però che la situazione di Mazzarri in questo momento, vi chiedo scusa ma cerchiamo di far passare l'ambulanza che mi sembra adesso la cosa più importante che c'è, e quindi dicevo, secondo me la situazione è ancora sotto controllo, però certamente insomma questa squadra deve tornare a vincere. Sì, soprattutto deve tornare, Piera, c'è qualche problema di collegamento, adesso ti riprendiamo, deve tornare ad avere una sua logica, perché i gol presi nelle ultime 5-6 partite sono eccessivi. Eraldo da Napoli, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Prego. Vabbè, non so se c'è ancora Pardo. C'è, l'ascolta, prego. I complimenti per domenica scorsa che mi ha fatto consolare con Napoli-Inter. Bella telecronaca. Bella telecronaca. Consolare è uno di quei verbi veramente napoletani, no? E poi il contrario di intossicare, a ricreare, bellissimo. Prego, Eraldo. mi piace molto. No, niente, io volevo soprattutto intervenire. Sì, dica. Sulla. No, stavo un ritorno nel telefono. No, sulle chiusure della curva dell'Inter e delle curve in generale, no? Dica. Che io sono, essendo napoletano, sono contro e soprattutto anche sulla testa del tifoso. Però la cosa che dà fastidio un po' a noi napoletani è il fatto che dopo le squalifiche, le chiusure degli stadi, delle curve, si parla, ma no, sono coretti così, sono delle gogliardate, sono cori così. Mentre guarda, in qualsiasi stadio dove andiamo noi napoletani, a parte Genova, abbiamo insulti di tutti i tipi, napoletano coleroso, lavatevi, e il signor Pardo che frequenta gli stadi ne può dare conferma, e non è molto bella. Niente, boh, sì, non è molto bella, poi ci sono anche tante altre cose, caro Eraldo, che non sono molto belle e che succedono negli stadi. No, però che debba alzarsi, Pierre, il tasso di educazione dei nostri stadi, lasciamo stare la questione razzismo che la diamo per scontata, anche che debba alzarsi il tasso di educazione dei nostri stadi, è quasi banale dirlo, ma lo diciamo, deve succedere, magari non attraverso queste regole così rigide, però è bene che succeda. O no? Sì, ma è la generalizzazione chiaramente che poi è dietro al tifo che rende in certi momenti insopportabili e odiose queste cose, perché Napoli è una città popolata come tutte le altre città da geni, da cultura, da eleganza, da intelligenza, e poi sono quelli meno per bene, ma come qualsiasi altra città al mondo, quindi l'idea che si debba accompagnare una città o un pezzo d'Italia con una targhetta è un'idea di essenzialmente stupida, ma il razzismo è stupido, cioè il razzismo è una stupidità fuori dal mondo, perché ti impedisce di distinguere le cose, di discernere all'interno della stessa città, all'interno delle persone che hanno lo stesso la pelle, chi ha più talento e chi ce l'ha di meno, chi è più bello e chi è meno bello, chi ti sta simpatico e chi ti sta antipatico. Quindi togliata di per sé il razzismo in assoluto, applicato al calcio chiaramente può portare a questi problemi. Io credo che i napoletani questa cosa se la portino addosso, tante persone del sud lo sappiamo, l'abbiamo letto, io da bambino l'ho letto sui libri di scuola, che 30 anni fa o 40 anni fa nell'andare magari a vivere al nord avevano qualche problema a trovare casa o a convincere di essere delle brave persone alle quali si poteva comprare una macchina, e questo è un problema culturale enorme del nostro paese. Il limite fra quello che è campanilismo sano e invece razzismo è un limite certe volte molto sottile. Molto sottile. Però ripeto, la responsabilità bisogna applicarla, la deve pagare chi commette le cose, non uno semplicemente perché si stabilisce che quel settore deve pagare. Quella è proprio una sconfitta dello Stato di diritto, secondo me. Andrea da Lodi, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo solo parlare di Galliani e del Milan. Sì. Io credo che l'atto che sia stato fatto ieri sia il depotenziamento dell'imperatore. Praticamente è stato limitato per il normalissimo cambio generazionale che sta avvenendo all'interno del Milan, nel senso che la squadra è stata consegnata alla figlia del proprietario, che giustamente vuole comandare in quanto sua, e Galliani è stato solo ed esclusivamente depotenziato. E mi sono meravigliato del fatto che all'improvviso abbia cambiato idea dopo aver pubblicato ai 4:20 le sue dichiarazioni, le sue dimissioni, anche con dichiarazioni molto molto polemiche. Quindi sono rimasto piuttosto, come dire, basito dal suo comportamento, che poi è tornato sui suoi passi continuando a fare quello che sta facendo depotenziato. Sì, resta Andrea che poi in realtà Galliani, oltre alla parte sportiva, tiene anche tutta la parte che riguarda i diritti TV e il fatto di rappresentare il Milan in Lega Calcio significa più o meno che si tiene metà del bilancio dal punto di vista dei numeri della cassa, quindi depotenziato ma fino a un certo punto di vista. Non lo vedo così debole da domani Galliani. Detto che io continuo ad avere qualche perplessità, ma Franco Ordine mi ha quasi convinto, Pier. Sì, ma poi è nell'interesse di tutti e due i soggetti trovare un equilibrio, perché Barbara sicuramente ha delle qualità e ha una freschezza, un entusiasmo, una giovinezza che può tornare molto utile, e poi chiaramente insomma è la figlia del presidente, quindi ha una passione, una identità assolutamente rossonera, proverà a fare tutto per il meglio del Milan, avrà un po' di inesperienza come tutti i giovani all'inizio, ma insomma io questo lo dicevo anche pochi giorni fa, non si può adesso secondo me giudicare prima. Io credo che Barbara avrà questo tipo di atteggiamento e potrà magari imparare delle cose da Galliani, e Galliani potrà trovare da parte di Barbara magari qualche idea nuova e un po' di freschezza. Io non, ripeto, non vedo un disastro annunciato. Sicuramente non ci possiamo dimenticare che, insomma, non l'hanno deciso a tavolino, no. È stata una cosa che è arrivata dopo uno scontro anche mediatico molto forte. Sì, lo ripeto, qualche straccio in casa Milan è volato, più di uno. Era e resterà sempre nel mio cuore. Prima o poi vorrò tornare, se ci sarà la possibilità. Se non ci sarà l'opportunità che questo accade, la Sampdoria la butterò da fuori. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Di un sogno nel mio cuore. Non lo dico, però potete immaginare. Perché sperando che si avvenga un giorno, la Sampdoria era e sarà sempre nel mio cuore. È stata l'esperienza più grande e più bella della mia vita. Io l'ho detto anche adesso che sono nell'Inter, è il mio sogno. Anche no, no, no, no, no, loro lo sanno. Io sono tifoso interista, sì. però sarebbe un sogno ritornare a casa. Per me, siccome la mia base è Genova adesso, stella mia. Ho scelto la Sampdoria perché io penso che questa sia la città giusta, infatti stamattina anche la gente mi ha accolto in una maniera incredibile. Io ho bisogno di affetto, appena ricevo affetto do il 110%. Ma il cielo è sempre più blu. Giampiero Timossi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, come state? Benissimo. Cosa racconta a gennaio nella conferenza stampa di presentazione del suo ritorno alla Sampdoria, Cassano? Non lo so. Cosa? Dai, facciamo so, proviamo a sbilanciarci. Però è una cosa divertente. Io ho sentito questa serie di frasi, no, di Cassano, che sono frasi dette pubblicamente. Quindi la cosa curiosa e interessante che nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare così molto amichevolmente alcuni compagni di Cassano al Parma, e mi hanno raccontato che Antonio dice esattamente le stesse cose anche con una certa insistenza all'interno dello spogliatoio. Quindi io credo assolutamente a questa forte volontà di Cassano di tornare a Genova e di tornare probabilmente, anzi molto probabilmente, alla Sampdoria. Perché faccio questa distinzione perché un punto è chiaro: Cassano ama Genova e per me questo, che io sono genovese, per me questo è già un elemento importante. Piaceva anche, non l'ha mai nascosto, al Genoa e al suo presidente, però credo che la destinazione più naturale sia quella della Sampdoria. Ti risulta che già quest'estate interessante. Ti risulta, sì, scusa, sì, che già quest'estate abbia telefonato più volte per provare a capire se questa strada verso la Samp era riaperta, si poteva riaprire, forse non erano ancora maturi i tempi? Ora, a me, io poi parlare di Cassano è difficile, abbiamo il più grande amico esperto di Cassano, è vivo Pardo, perché non, sì, lo sei, è vivo, però io, qua, cioè, qua. Ecco, dai, ci stavo ascoltando, Pardo, volevo capire se la Samp fa questa offerta oppure no, perché questa esatto, però vedi, Pardo ha detto una cosa giusta, cioè la volontà di Cassano è chiara, adesso bisognerà capire qual è la volontà della Samp. Io poi non credo che Antonio abbia chiamato così spesso, no, perché è una persona molto orgogliosa, che giustamente, magari poi non chiamerà mai, credo, ma avrà chiamato magari qualche amico, avrà cercato di capire, ma poi è importante capire cosa penserà il presidente Garrone. Fino a qualche tempo fa era stato abbastanza drastico, deciso su questo argomento, aveva detto che Cassano non sarebbe tornato da giocatore alla Sampdoria. Pier, io credo e spero che ci ripensi, insomma, e penso che ci siano possibilità che questo avvenga. Un amico al 349-238-6666, Pardo, sei più democristiano di Andreotti, fra un minuto gli rispondi. Tutti convocati. 800-24-00-24, ci va da uomo diverso a Genova, Cassano no, Pier? Ma secondo me non ci va. Io, a parte che sta bene a Parma per motivi anche proprio strettamente, perché ha fatto un trasloco 5 mesi fa, a Parma abita in centro, sta benissimo, ha un rapporto che mi sembra buono con alcuni compagni di squadra che ho anche conosciuto, visto, mi sembra veramente che che non ci sia nessun problema particolare, ha un buon rapporto con l'allenatore, ci sono anche una persona di famiglia che lavora a Parma adesso, non voglio entrare in dettagli, cioè mi sembra che abbia delle connessioni con Parma molto forti. Sulla Sampdoria è evidente che gli piace, insomma, ma l'ha sempre detto, non l'ha mai nascosto, Genova è il posto dove vivrà, quindi questo è un dato, insomma, anche l'altra sera l'ho visto, è chiaro che la Sampdoria è sempre una squadra alla quale lui guarda con l'affetto veramente da tifoso, secondo me. Però insomma, se non dovesse arrivare questa offerta, non credo che sarebbe un dramma. Cioè, a me sembra lui stia facendo un'ottima stagione, con 7 gol, con molti assist, e stia bene. Sinceramente, io non ho visto una persona, io ho una lunga frequentazione che smania per andare a Genova, per andare alla Sampa. Non ho visto una persona che mi dice: Pier, me ne devo andare, ce la faccio più. Queste cose qui non, assolutamente non ci sono. Mi sembra una persona molto tranquilla e molto serena. È chiaro che la Sampdoria, ma questo adesso, anche quando era al Milan o all'Inter, se tu gli facevi il nome della Sampdoria, lui comunque la lacrimuccia ce l'aveva. Non so neanche dirti perché, probabilmente perché lega la Sampdoria il suo matrimonio, la persona che ha conosciuto, perché si è sentito a casa, perché si è sentito amato, perché comunque quello è un pubblico particolarmente caldo, perché c'era comunque la tenerina del derby. Confermo quello che ha detto Mossi, cioè quest'estate c'è stato un ennesimo sondaggio da parte del Genoa per portarlo. Ma ci sarebbe andato o no al Genoa? No, non c'è andato. Ma per non c'è andato, lo sappiamo, ma non c'è andato perché poi non si è concretizzato, o perché è stata una scelta? Perché non è una cosa che si può fare, ma anche per rispetto dei tifosi del Genoa stessi, molti dei quali probabilmente non l'avrebbero neanche voluto. Ma è proprio, secondo me, una di quelle cose che dei calci sono difficili da fare. Tu dirai, vabbè, dal Milan all'Inter, però Milan-Inter non va dimenticato che è stato uno scambio voluto fortemente dalle società, tutti erano convinti di aver fatto l'affare, dello scambio Cassano-Pacchini. E poi Milan-Inter, con tutto il rispetto per Milano, io penso che a Genova il derby è qualcosa di molto più viscerale, cioè molto più difficile, soprattutto per un giocatore che è stato simbolo di una squadra, e Cassano è stato simbolo della Samp, certamente non è stato simbolo del Milan, spostarsi da una parte all'altra. Giampiero, ma la gente della Samp lo rivorrebbe o no? Una buona parte della gente della Samp lo rivorrebbe. Io sono d'accordo con quello che diceva il senatore Pardo. Senatore Genova democristiano, Senatore Avvita, democristiano. Però, No, io ho detto solo senatore, un assenso di rispetto, non c'era nessuna allusione al messaggio di prima. No, io sono d'accordo con quello che dice Pier. Giampiero, ti fermo perché c'è una breaking news. Breaking news. Notizia appena battuta dalle agenzie: è stato catturato Bartolomeo Gagliano, il pluriomicida fuggito dopo un permesso dal carcere di Genova a Marassi. Lo ha comunicato il ministro Cancellieri. Ne parliamo tra pochissimo in GR24. E quindi lo riportano a Marassi, caro Giampiero, prego. Era l'attività, era quello di qua. Se vedete sul Secolo di Oggi, io non seguo più solo il calcio, ma evidentemente eravamo sulle tracce, oggi sto seguendo proprio questa cosa, ma parlo volentieri vero, di Cassano vero, con vero, voi. Vero, c'era la prima pagina, l'unica, che dava insomma l'arresto, non dico imminente, ma diciamo vicino. Non ha pagato un telepass. Vi do questa anticipazione, è stato beccato perché non ha pagato un tempo. Hai visto, facciamo anche informazione, Pier, siamo trasversali. No, scusatemi, ho divagato. Dicevo, ha ragione Pierre, Genova è un'antica città dove il derby è molto sentito perché è una città, Milano è una metropoli, quindi anche le passioni vengono diluite in questa grande città, quindi era molto difficile che Cassano riuscisse a passare dalla Samp al Genova. I tifosi della Samp lo amano moltissimo. Io ho riportato queste frasi di alcuni compagni anche importanti di Cassano, che però non vogliono significare che Cassano voglia tornare subito alla Sampdoria. Il suo desiderio tornare alla Sampdoria. Io dico un'altra cosa: se fossi il presidente della Sampdoria, Garrone, prenderei in seria considerazione questa volontà di Cassano di tornare a casa. È vero che è un giocatore che non è più giovanissimo, è vero che ha avuto purtroppo qualche problema importante fisico, ma sembra l'abbia superato, ed è un giocatore comunque sempre straordinario. Un'ultima cosa: in questi giorni stavo seguendo anche questa un po', insomma, lunghissima vicenda del calcio scommesse, no? Avete visto tutte queste, siamo ormai sì. alla quarta puntata. Io credo di non essere smentito, mi auguro di non essere mai smentito, ma in tutta questa vicenda, vedete che ci sono tanti personaggi che a vario titolo vengono tirati in ballo, forse anche in maniera inopportuna. Ecco, non ci troviamo mai quelli che vengono definiti nel calcio dei cattivi ragazzi. Cioè, io rivedrei un po' questa immagine di Cassano piantagrane, di Cassano atleta non importante, non positivo all'interno di uno spogliatoio o per una squadra. Insomma, Cassano ha un carattere particolare, molte persone si sono scontrate con lui, è un carattere duro, molto riservato, molto diffidente, è capitato anche a me, non ho un particolare rapporto di amicizia con Cassano, però lo ritengo un grandissimo giocatore e credo che a modo suo abbia comunque dei valori sportivi che sono anche superiori, si può fare una classifica, ad alcuni valori che magari altri ci propinano tutti i giorni. Insomma, sì, io magari Piantagrane, un personaggio positivo. Magari Piantagrane lo è, però poi su altri versanti ci si può mettere la mano sul fuoco. Grazie Giampiero. Grazie a voi. Grazie buon Natale anche a Pardo. Anche a Pardo. Buon Natale anche a te, Pier. Mi dai 30 secondi di quest'ultima cosa? Prego. Finisco da avvocato di Cassano. Questa cosa che ha detto Timo mi fa particolarmente piacere, perché e da un certo punto di vista è un'ulteriore occasione persa, nel senso che comunque lui sicuramente ha avuto dei problemi di pubbliche relazioni col mondo, e questo è un problema, no? Perché se poi ti parte la vena nella vita fai un sacco di casini, e questo è quello che è successo a lui, è la sintesi della sua carriera e di tutti i suoi problemi calcistici. Se fosse stato un po' più tranquillo in 5-6 momenti chiave della sua vita avrebbe avuto una carriera nettamente migliore, ma dal punto di vista della passione per questo gioco, per quello che lo conosco io, dell'onestà nei comportamenti, per l'amore proprio del calcio come gioco, inteso come gioco, secondo me è un grandissimo, e forse l'ha vissuto troppo come un gioco in certi momenti, cioè non ha avuto l'ambizione che certi altri giocatori straordinari hanno avuto, cioè si è sempre fermato e accontentato del piacere che gli dava giocare a pallone, fare un assist e divertirsi giocando a pallone. Ciao Pier. Ciao. Ci sentiamo domenica, lo ricordo, l'appuntamento a partire dalle 17. Mario da Perugia, buon pomeriggio. Non so se sei pronto? Sì, prego. Non so se sono fuori luogo in questo momento. No, può dire quello che vuole. Intervenire sulla sbagliatissima abitudine di punire o di prendere provvedimenti che puniscono i molti per reati che sono attribuibili a poche persone. Io ho insegnato per 40 anni. Non ho mai risolto un problema in una classe quando di fronte ad una infrazione, a un reato, veniva punita tutta la classe. Questo rafforza il senso di impunità dei prepotenti, umilia le persone che subiscono una punizione ingiusta e dimostra l'impotenza dell'istituzione. Le responsabilità, quando sono soggettive, vanno individuate, sì, e punite. Il problema spesso è riuscire a individuarle, non sempre è facile, almeno si potrebbe provare a circoscrivere. Perché non si è in grado di. Almeno si potrebbe provare a circoscrivere. Una curva è diversa da una classe, però detto questo, probabilmente queste regole andranno nuovamente riscritte. Grazie Mario. Giulio, dalla provincia di Como. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno. Prima di tutto volevo ringraziare il coach Dan Peterson per il pronostico che ha fatto la settimana scorsa, sì, che ha detto che vinceva Cantù, e ha indovinato il pronostico. E poi volevo sapere per voi, per Hacke, se va a Milano, per me è almeno per noi è quasi un disastro. Lei cosa ne pensa? Penso che per Milano è un'ottima notizia ed è una pessima notizia per tutti gli altri. Ho l'impressione che quest'anno, un pezzo dopo l'altro, un mattone dopo l'altro, Milano stia mettendo in piedi un progetto che a primavera potrebbe trovare compimento, a differenza di quanto accaduto troppo spesso in passato. Hackett certamente sarebbe la ciliegina sulla torta, una torta però che sta già lievitando bene, questo è quello che pensiamo. A proposito dell'inchiesta calcio scommesse, parla il legale del CIV e dice: con Gattuso solo un'amicizia. Oggi ha parlato anche il procuratore di Cremona, Roberto Di Martino. L'intervista è su Repubblica. Ha detto il magistrato che ha iscritto Gattuso nel registro degli indagati. Gattuso è soltanto uno delle centinaia di indagati dell'indagine. La sua è una posizione collaterale, quasi marginale. L'iscrizione è un atto a garanzia dell'indagato e non potevamo far finta di niente. Da che mondo è mondo? Ha risposto poi alla domanda sulla perquisizione alle 6 del mattino. Da che mondo è mondo? Ha detto: le perquisizioni si fanno alle 6 del mattino. Se troveremo qualcosa di interessante, verrà chiesto il rinvio a giudizio. Nel caso contrario, archivieremo tutto. E comunque non abbiamo chiesto l'arresto di Gattuso. Anche questo vorrà dire qualcosa. Luigi da Milano, 800 24 00 24. Luigi, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio, cioè buon pomeriggio. Dica. Pronto? Sì, dica. Dunque, no, si tratta di questo. Io non sono un grande appassionato di calcio, lo è mio figlio, il ragazzino, invece. Sono napoletano che vive in Liguria. Sì. E praticamente l'ho portato a vedere la partita Sampdoria-Inter, una partita qualsiasi praticamente, giusto così per andarla a vedere. E sono capitato praticamente in una tribuna vicino alla gabbia dove c'erano i tifosi dell'Inter. Tenendo conto che Napoli non c'entrava niente perché era una partita Sampdoria-Inter, questi qui praticamente hanno intonato un coro volgarissimo, ma dico volgarissimo, dicendo, urlando, straziando tutti quanti, dicendo: noi non siamo napoletani, noi non siamo napoletani. Sì, noi non siamo napoletani non è nemmeno insultante, il problema è tutto il resto. Sì, ragazzi, sì, comunque ha ragione Luigi. Se vogliamo nascondersi dietro un dito, è chiaro che evidentemente non è un insulto in assoluto. Insomma, questo lo può dire anche uno di Stoccolma: noi non siamo napoletani. Ma detta in quel modo lì, vi dico che io da napoletano ho portato il ragazzino allo stadio in questo modo qua. Oltretutto io con mio figlio cerco di stabilire un rapporto che con lui nei confronti di Napoli che sia quello corretto, insomma quello giusto. Ma sì, Luigi ha ragione, l'abbiamo detto, assolutamente pessima, l'abbiamo detto, ci vuole più educazione negli stadi. Poi la storia del coro sui napoletani, che non è quello, è un altro ed è ben peggio, è diventata in queste settimane anche una specie di sfida del mondo ultra alle istituzioni, a queste nuove norme. È una prova di forza e anche per questo è difficile poi far finta di niente, però succede anche altro, Luigi, succede anche peggio negli stadi. Walter da Genova, buon pomeriggio. Prego. Io intervengo perché volevo dire che quelli che ho sentito prima, Abbiati, Galliani e tutta questa gente che dice territoriale, ma non mi dicono polentone, ma io dico: ma stiamo scherzando? Cioè, nel senso, o facciamo le cose o non le facciamo. Poi si capisce perché viene punito Birindelli e la sua squadra, perché questo è il sistema calcio italiano. Cioè, allo stadio, lo stadio va ripulito, punto. Ci sono delle regole, si applicano, punto. È stato deciso che chi fa cori che offendono, le curve devono essere chiuse, punto. Finché la lezione non si impara. Se poi ne arriva Piani, Gagliati e tutta sta gente qua che dice: ma no, fanno i moralisti quando gli fa comodo, allora io capisco perché hanno punito Birindelli e la sua squadra. Ma questo è il sistema calcio italiano. Tutto qua. Sì, Walter, Birindelli è stato punito perché poi spesso e volentieri le norme vengono applicate in maniera troppo rigida, e quando le norme sono applicate in maniera troppo rigida spesso si finisce anche per renderle stupide. È una squadra che si ritira, perde 3-0 a tavolino, così è scritto nelle norme e così è legittimo se vogliamo, anche da un certo punto di vista. Poi bisognerebbe avere il buon senso anche di leggere che cosa c'è dietro quella scelta di ritirare una squadra e magari evitare di penalizzarla ulteriormente. Però purtroppo è un salto avanti che il nostro calcio in questo momento non è in grado di fare. Non l'ha fatto, non lo fa per i ragazzini di Birindelli, probabilmente non lo fa nemmeno per altre norme, anche se poi sull'onda della pressione popolare, mediatica, è evidente che qualcosa si cambia. È accaduto anche per le norme antirazziali. Però siamo a questo punto e difficilmente io vedo a breve, nel medio periodo, la possibilità di migliorare. A proposito ancora di Gattuso, ne ha parlato Montella, sentiamolo. Sono sorpreso anche a leggere dei nomi che per me sono impensabili, conoscendo le persone che possono essere coinvolte. Sono sorpreso dalle persone, sono convinto che possa trattarsi di qualche equivoco, ecco. Quindi anche Montella metterebbe la mano sul fuoco per Gattuso? Ma assolutamente sì, lo conosco da tantissimi anni, so del suo volontariato, so della sua fondazione, so direttamente perché è stato coinvolto più di una volta. È anche vero che intorno ai calciatori di fama ruotano talmente tante persone che talvolta ti puoi trovare in certe circostanze che tu nemmeno conosci. Marcello dalla provincia di Campobasso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, prego. Volevo parlare di questo fatto delle curve. Sì. Va bene, comunque sì, capisco tutto, ma credo che questi provvedimenti siano inefficaci. Proprio non li trovo affatto giusti. Oltretutto poi per ciò che riguarda la curva della Roma e le offese a Balotelli, secondo me su Balotelli non si tratta di razzismo. La curva della Roma ormai l'ha preso a pretesto di un fatto successo qualche anno fa con Totti, e il razzismo c'entra proprio niente. Sì, l'hanno preso a pretesto anche tanti altri, poi però in tutto il mondo e non solo in Italia quella cosa lì viene identificata, Marcello, come razzismo e come discriminazione razziale, perché questo nel caso dei bu razzisti non è una specialità soltanto nostra. Guardate che le punizioni, le pene dell'UEFA sono molto più dure, e quindi su questo secondo me non c'è nulla da fare, c'è da applicare in maniera rigida e durissima le norme per tentare di ripulire gli stadi italiani. Almeno da questo. Saluto Paolo Ghisoni, collega di Sky. Ciao Paolo. Eccomi Giovanni, buona giornata a tutti. Autore di un bel libro, La Giovane Italia 2013, che aiuta a mettere insieme, mi pare di aver capito, la faccia più bella del calcio italiano. Stiamo parlando dei ragazzini, degli under 15, degli under 19, di quelli che ad esempio fanno notizia. Ne abbiamo parlato tanto anche oggi, quando poi sul giornale si legge che un allenatore come Birindelli è costretto a ritirare la squadra perché in tribuna stanno litigando i genitori. Non è tutto marcio però. No, e viene anche penalizzato 0-3 a tavolino. Sì. Questa è la cosa allucinante. Ma quelle sono le norme, è allucinante ma sono le norme. Allora, faccio una precisazione, coautore, perché quest'anno il lavoro è stato un pochettino più ad ampio spettro, quindi siamo arrivati fino alla prima divisione, abbiamo 450 ragazzi under 19, quindi significa dai 94 ai 99, per quelli che io, Stefano Nava, Francesco Carabelli e Guido Macconi riteniamo essere quelli più di prospettiva. Ce n'è scappato sicuramente qualcuno, lo dico già per non per mettere le mani avanti, ma perché i ragazzi nel giro di due o tre settimane, per non dire mesi, escono con grande facilità, soprattutto quando sono, diciamo, giovani. Si è parlato prima di under 15, under 16, basta una convocazione in nazionale, due o tre gol, noi siamo già un pochettino spiazzati a dover riaggiornare un po' il tutto. La faccia più bella l'hai detto tu, l'ha detto Demetrio Albertini, perché quest'anno abbiamo la fortuna di avere la FIGC come partner, quindi abbiamo anche la fortuna di vestire una maglia azzurra, anche noi siamo convocati, anche noi con questo meraviglioso premio, e lo ha detto l'altro giorno alla presentazione a Milano, è un almanacco di sogni, perché alla fine chi c'è lì sogna di diventare in futuro un calciatore fatto e finito, ma lo ripeto per l'ennesima volta, è una cosa che il mio compagno di viaggio Stefano Nava ripete. Sì, è una strada lunghissima. La nausea, non è detto che chi non c'è lì non debba sognare, anzi, probabilmente, non so Giovanni, a me ricorda l'avventura scolastica, no? Quando i professori ti tenevano i voti bassi per stimolarti. Alla fine, se non ci sei, magari ti scatta una molla per dimostrare qualcosina in più anche a noi. E poi anche se ci sei, anche se fai parte di quei 450, la strada è comunque lunghissima e tutt'altro che scontata. Abbiamo purtroppo un minuto, Paolo, ancora. A proposito di giovani di federazione, ho letto oggi sui giornali Roby Baggio, il nome, come allenatore del Bologna. Lui aveva il compito di riscrivere un po', insomma, proprio il rapporto tra federazione e giovani. Non è andata benissimo, ci credi a Baggio come allenatore? Se è Baggio in se stesso, sì. Se è Baggio consigliato, no. Perché ho avuto la sfortuna di conoscere un po' l'entourage di Baggio, e se lui in prima persona è stato un grandissimo campione, e credo che possa essere una figura di riferimento. Se ha i vari consiglieri attorno che ho conosciuto io, sono molto scettico. Io continuo a pensare che la gavetta abbia un suo senso quando si vuol fare l'allenatore. Penso che anche la parabola di Gattuso debba insegnare qualcosa. Probabilmente Gattuso non era pronto per la Serie B, però noi siamo qui, ci sediamo e aspettiamo anche di vedere se Baggio sarà il nuovo allenatore del Bologna. Grazie a Paolo Ghisoni. Posso solo dire dove si trova l'almanacco? Prego. Via mail, lo ordinate, vi arriva a casa. L'indirizzo è la Giovane Italia 2013, tutto attaccato chiaramente, @gmail.com. Grazie Paolo. A te Giovanni, ciao, buona giornata. Noi ci fermiamo qui, un saluto e un ringraziamento ancora a Franco Piantani e a Roby Scaltritti. Appuntamento domenica a partire dalle 17 con tutti i convocati weekend. Un saluto anche da Giovanni Capuano.